e tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in diretta, eccoli qua, ciao ragazzi! Ciao a tutti! Siamo con gli amici di Torvole, giusto? Sì, esatto! Okay. E siamo qui a festeggiare chi? Ditelo voi! Sì, compleanno da Alice! Alice! Più 19! E a 19? Yes. Alice, mi presenti un po' gli amici? Yes, allora lei è Elisa, non la vedete? No, non la vede nessuno, però è Elisa, ecco! Lei è Elisa! Falla parlare, Elisa! Ciao ragazzi! Ah, perfetto. Poi c'è Alessandro. Ciao ragazzi. E c'è Brunelli. Ciao. Che non ha un nome, lo chiamo Davide. Davide. Brunelli. Il Brunelli, ok. Ok. Avete qualche soprannome anche o solo? La compagnia si chiama Ignari Caimani. Ah, Ignari Caimani. Come mai Ignari Caimani? Siamo un po'. Rozzi. La parola giusta è Folli. Ah, folli. Ma tu, ma anche le ragazze caimane allora? Certo. No. Certo. Soprattutto le ragazze. Ma scusa, allora gli amici a casa non ci vedono, però voi siete tutte così carine, vestite tutte, siamo invece fantastiche. E invece siete caimane? Sì. Sotto caimane. Sotto caimane. Se non sono pazzo non le vogliamo. Esatto. Ah, yes! Com'è? Wow, fantastica. Allora, dai, descrivetevi per gli amici a casa. Non so, partiamo con la morettina? Vai Eli. Sì, per gli amici a casa. Ok, allora io mi chiamo Elisa, ho 18 anni e studio. No, ma la descrizione fisica agli ragazzi a casa non gli interessa, allora, no, giusto, sono vero? Bassa Mora. Bassa Mora. Con gli occhi marroni. Perfetto. Però sono molto simpatico. Ok, fidanzato, single? Sono fidanzata. Fidanzata, quindi calano gli ascolti clamorosamente, vero ragazzi? Ecco. Sono rialzato. Adesso, appena arrivano. Allora, parliamo dei ragazzi, descrivetevi. Dai, senza dire bugie. Una parola. Una sola, dai, va bene. Non è di parte, non è di. Tu ce n'hai un'altra di parola, no, non parolaccia, mi raccomando. No, c'è la parola caimano. Ah, tu caimano. Ti descrivi come caimano? Caimano. Perfetto, veramente. Abbiamo già 10 chiamate almeno per conoscervi. Perfetto. Dai, Alice, descriviti. Alice, tocca a te. Alice, vai. Spettacolare. Spettacolare, ma non puoi copiare il Brunelli, Stupefacente. Stupefacente? Bionda. Ho solo parole positive per lei. Vai, Bruni. E chi mente ha ragione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Lui sa. Il Brunelli sa, ma nessun altro sa o chi ci ascolta capirà? Capirà. Quindi chi deve capire capisca. Esatto. Ma è un caimano anche lui? Molto. Hai molto caimano anche quello che deve capire. Scusa. Non si sa, non si capito. So, non lo sapete neanche voi. Però il Brunelli sa. Ok, ma Alice sei fidanzata, single? Fidanzata. Ma c'è un'epidemia a Torvole. Privato, non è vero. Sono tutte fidanzate, ragazzi. Con Derial Malvagino. È il suo soprannome. Cos'è il soprannome della sua fidanzata? È Derial Malvagino. Derial Malvagino? Sì. ma è qui? Ce l'abbiamo? No, oh, non ce l'abbiamo. Non c'è una diapositiva? No. Allora, te lo descrivo? Descrivi. È tutto tatuato, tutto con una bomba che esplode. Ha una bomba che esplode? Sì. Ha dei piercing dove? Sì, capezzoli. Ah, perfetto. Derial Malvagino. È un caimano anche lui. È un bravo ragazzo. Perché è malvagino? Perché è un po' pazzo, un po' troppo. Ah, un po' pazzarello. Voi lo conoscete, ragazzi? Certo. Infatti ciao. Lo temono tantissimo da come vedo. Ciao, malvagino. Ah. Salutiamo il malvagino? Spento per tutti, paura di nessuno. Cioè, ma tra l'altro il Brunelli parla solo per slogan, praticamente. Rispetto per tutti, paura per nessuno. Una parola solo stupendo. Cioè, non, ma ha sempre parlato così o... Quando ubriaco? Ma questo praticamente ve lo posso. Torna a casa con voi praticamente. Non lo so. Ma no, basta. Ah, perché siete in pullman? Sì, perché volevamo bere tutti. Sì, effettivamente avete fatto bene, visto. Se no guidava Brunelli. Brunelli ce l'ha la patente. Certo che ce l'ha Brunelli la patente. Ah, gliel'è andata? Sì, però non ci porta da nessuna parte. Brunelli, ma portala in giro. Guardati al molo, Brunelli. Guardati al molo. Cioè, tu guidi quando vai in discoteca. No, no, cioè io. Vado in monopattino io. Eh no, giusto. Intanto questo è il fan numero uno ormai della vostra serata. Secondo me vuol diventare caimano onorario, ecco. Sì, ma non lo prendete nel gruppo. A che è sto? Ma anche questo lo vedo com'è. Questo possiamo farlo sbranare dal Caimano. Ecco, una, abbiamo già una chiamata in diretta per la nostra bassa Morettina. No, ma ti no, suonava il telefono. No, fantastica. No, è l'amico, non lo so, è qua in giro, non lo so cosa sta facendo. Ah, vabbè. No, Mattia. Mattia, salutiamo Mattia. Ciao, ecco, Mattia. Ciao, ciao Matti. Ciao. Volete salutare ancora qualcun altro? O no? Dai. Ciao, Laura. Un bacio, Laura. L'amorosa della di Mattia, la Laura. Ah, la Laura. Che è un aspirante caimano. Però non è ancora. Ma per diventare caimano uno cosa deve fare? Deve essere vero. No. Vero? Vero, vero cosa? Vero. Vero, in generale. Ne ho visti io di tarocchi in giro, cioè, vedi come il Brunelli è vero, è vero, si vede che... figa, questo, no, questo... ancora è contentissimo, ma guarda che faccia che ha, eh sì, bello. Non mi sembra di essere tipo in un acquario con i pesci e ogni tanto si appiccica qualche pesce strano? Quello è il pesce pulitore, noi siamo i caimani, quelli sono, quelli sono il pesce pulitore, queste cose qua, cose... quelli significanti. Alice, sei contenta di aver festeggiato il 18esimo? Tantissimo. Quello, intanto Brunelli ha fatto atmosfera, ha spento la luce, così. Tantissimo, ti sei divertita? Sì, avevo già fatto anche i 16. Ah, quindi ogni 2 anni vieni a cadere. 3 anni. Ogni 3 anni. Ah, 19 adesso, 19. È vero, è vero. Ma sai che forse mi ricordo, eri vestita di bianco? Yes. Non è vero. Pazzesco. Era vestita di bianco. Era vestita di bianco, ah, mi ricordo. Avevi vestito lungo bianco? No. Però avevi qualcosa di bianco, sì, sì. Pazzesco, è famosissima Alice, eh? Una roba, una cosa. Quando venite spaccate chissà qua perché, al convento. Chissà perché. Chissà perché. Perché insieme perché al malvagino. Perché è una caimana. Perché è una caimana. Ah, perché è una caimana. Ma avete anche un saluto da caimani? No. Dovremmo inventarlo. Eh sì, eh. Le felpe, è vero, le felpe dei caimani volevano lanciare. Ah, tutti in giro sempre con la stessa felpa? Sì. Tutti ignari caimani. Spaccareste in giro, cioè quando entrate in un locale siete voi. E perché non lo fate? Lo faremo. Lo farete, promessa? Per la prossima volta che tornate al convento mi tornate con la felpa. Quello chi è? È Mattia, quello che mi ha chiamato. Ah, Mattia prima. Ah, Mattia. Sì. Ah. Lui va. Ah, Mattia, sei gay. Ecco, ciao, una notizia Gia. Incredibile alla radio su Mattia. Detto, cos'è? Questo, ecco, basta ragazzi. Ok. Il pesce questo che vi saluta. Il pesce. Ma è vostro amico almeno? Il pesce palla, no, non lo conosciamo, non è caimano. Perfetto, ok, non è caimano. Sì, no. Cosa? Ha fatto X? Crocione ti ha fatto. Non lo so, vale benedizione, penso, no? Non credo proprio. Dov'è che si sentono da questa radio? E nella radio web del convento di Lonato? Non questi. No, mi sentono da fuori. No, ok, allora. Io farei così, visto che abbiamo fatto questa promessa, la prossima volta che tornate al convento di Donato, tutti con le felpe da caimani, va bene? Ovvio, così certo. Mi fate la grande entrata al convento, ciao. Ok? Adesso fatemi il grande saluto per tutti, vai. Ciao ragazzi! Con i nomi, vai, ciao dal? Dal Bruni. Bruni. Il Bruni. Alessandro. Dalla Sando. Dalla Facca. Dalla Facca, ciao, dalla Facca, auguri 19, belle. Ciao.